altro illusorio. Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. Quando Fridolin giunse a casa, abbastanza stanco, ma con l'animo stranamente sollevato, il che gli sembrò peraltro illusorio, Albertina e la bambina avevano già pranzato, ma gli fecero compagnia mentre mangiava. Colei che la notte l'aveva fatto tranquillamente crocifiggere, gli sedeva di fronte, lo sguardo angelico, l'aspetto materno, e da donna di casa. Ma Fridolin, con sua stessa meraviglia, non la odiava affatto. Mangiò con appetito. Si sentiva un po' eccitato, ma in realtà era di buon umore. E come era solito fare, parlò molto animatamente delle piccole vicende professionali di quel giorno, in particolare dei problemi del personale medico di cui soleva sempre informare dettagliatamente Albertine. Riferì che la nomina di Hügelmann era quasi sicura e parlò del suo proposito di riprendere con maggior lena il lavoro scientifico. Albertine, che conosceva bene quegli stati d'animo, sapeva che non solevano durare troppo a lungo e un lieve sorriso tradì i suoi dubbi. Fridolin si infervorava e Albertine gli passò delicatamente la mano sui capelli come per calmarlo. Ora egli trasalì leggermente e si rivolse alla bambina, sottraendo così la fronte ad altre sgradevoli carezze. Prese in braccio la piccola e voleva farla dondolare sulle ginocchia, quando la domestica annunciò che c'erano già alcuni pazienti che attendevano. Fridolin si alzò con un senso di liberazione. Disse ancora di sfuggita che Albertine e la bambina potevano utilizzare quel bel pomeriggio di sole per andare a passeggio, ed entrò nello studio. Nelle due ore che seguirono, Fridolin si trovò di fronte 6 vecchi pazienti e 2 nuovi. Si mostrò molto interessato ai singoli casi, visitò, prese appunti, prescrisse medicine e fu contento di sentirsi così meravigliosamente fresco e sveglio dopo le 2 ultime notti quasi insonni. Al termine passò, come era sua abitudine, a vedere ancora una volta la moglie e la bambina e notò, non senza soddisfazione, che Albertine aveva appena ricevuto la visita della madre e la piccola imparava il francese con la governante. Soltanto per le scale si rese conto di nuovo che tutto quell'ordine, quell'armonia, quella sicurezza della sua esistenza non erano che apparenza e menzogna. Sebbene avesse disdetto le visite pomeridiane, sentì una irresistibile attrazione a tornare in ospedale. C'erano 2 casi particolarmente interessanti per un lavoro scientifico cui progettava di dedicarsi e per un certo tempo se ne occupò più minuziosamente di quanto avesse fatto finora. Poi visitò ancora un paziente in centro e così si erano fatte le 7 di sera, quando si trovò davanti alla vecchia casa nella Schrevogelgasse. Solo quando sollevò lo sguardo verso la finestra di Marianne, la sua immagine, che nel frattempo si era completamente sbiadita, si ridestò con maggiore chiarezza di ogni altra. Ecco, ora non poteva fallire. Qui poteva iniziare la sua vendetta, senza eccessivo sforzo. Qui non c'erano difficoltà né pericoli. E l'idea che forse avrebbe fatto indietreggiare altri, che lei tradisse il fidanzato, per lui era quasi uno stimolo in più. Sì, tradire, ingannare, mentire, fare la commedia dovunque, davanti a Marianne, davanti ad Albertine, davanti al buon dottor Rödiger, davanti al mondo intero, condurre una specie di doppia vita. Essere il medico valente e fidato dal promettente avvenire, il buon marito e padre di famiglia e allo stesso tempo un libertino, un seduttore, un cinico che giocava con la gente, con gli uomini e donne a seconda dell'estro. Tutto ciò gli sembrò in quel momento molto attraente, ma la cosa più attraente era il pensiero che un bel giorno, quando Albertine si sarebbe creduta ormai protetta dalla sicurezza di una vita domestica e coniugale senza scosse, le avrebbe rivelato con un freddo sorriso tutte le sue colpe, ripagandola così dell'amarezza e del disonore che gli aveva cagionato col suo sogno. Nell'ingresso si trovò di fronte il dottor Rödiger, che gli diede la mano con ingenua cordialità. «Come sta la signorina Marianne?» chiese Fridolin. «Si è calmata un po'?» Il dottor Rödiger si strinse nelle spalle. «Era già da tempo preparata la fine, dottore. Solo quando oggi verso mezzogiorno hanno portato via la salma...» «Ah, è già avvenuto!» Il dottor Rödiger annuì. «Domani pomeriggio alle 3 avranno luogo i funerali.» Fridolin guardò dinanzi a sé. «Ci saranno naturalmente i parenti con la signorina Marianne?» «Non più», rispose il dottor Rödiger. «Ora è sola. Marianne sa certo che non potete prendere il dottore. Domani mia madre e io l'accompagneremo a Mödling.» E a uno sguardo cortesemente interrogativo di Fridolin, «i miei genitori possiedono lì una casetta. Arrivederci, dottore. Ho ancora diverse cose da sbrigare. Che cosa non c'è da fare in un caso simile? Spero di incontrarla ancora qui al mio ritorno.» E così dicendo uscì dal portone, sulla strada. Fridolin esitò un attimo. Poi salì lentamente le scale. Suonò il campanello. Venne ad aprirgli proprio Marianne. Era vestita di nero. Aveva al collo una collana di giaietto nera che non le aveva mai visto. Arrossì leggermente. «Mi fa attendere a lungo», ella disse con un debole sorriso. «Mi scusi, signorina Marianne, oggi ho avuto una giornata particolarmente faticosa.» La seguì, passando attraverso la stanza del defunto, il cui letto era ormai vuoto, nella camera accanto dove il giorno prima aveva scritto il certificato di morte del consigliere sotto il quadro dell'ufficiale in uniforme bianca. Sulla scrivania ardeva già un piccolo lume, sicché la stanza era in penombra. Marianne lo fece accomodare sul divano di cuoio nero, mentre lei gli si sedette di fronte, dietro la scrivania. «Poco fa, entrando, ho incontrato il dottor Rödiger. Dunque già domani andrà in campagna.» Marianne lo guardava come meravigliandosi del tono freddo delle sue domande e chinò la testa, quando egli, con voce quasi dura, continuò: «Trovo la decisione molto assennata.» E illustrò freddamente i vantaggi che le avrebbe procurato l'aria buona e il nuovo ambiente. Lei era seduta immobile, le guance rigate di lacrime. Fridolin la guardava senza compassione, piuttosto con impazienza. Il pensiero che forse un attimo dopo potesse stare di nuovo ai suoi piedi e ripetergli la confessione di ieri lo riempiva di paura. E poiché ella taceva, si alzò bruscamente. «Mi spiace molto, signorina Marianne, ma...» Tirò fuori l'orologio. Marianne sollevò la testa, guardò Fridolin mentre le lacrime continuavano a scorrere. Lui le avrebbe volentieri detto una parola di incoraggiamento, ma non trovò la forza di farlo. «Rimarrà alcuni giorni in campagna», cominciò forzatamente. «Spero che mi farà avere sue notizie. Del resto il signor Rödiger mi ha detto che presto avranno luogo le nozze. Mi permetta di farle fin da ora gli auguri.» Marianne non si mosse, come se non si fosse affatto accorta dei suoi auguri del suo commiato. Fridolin le diede la mano, che lei non strinse. E quasi in tono di rimprovero ripeté: «Dunque, spero tanto che mi darà notizie della sua salute. Arrivederci, signorina Marianne.» Lei stava là, come impietrita. Fridolin uscì. Si fermò un secondo sulla porta, quasi a concederle un'ultima possibilità di richiamarlo, ma lei sembrò piuttosto volgere il capo dall'altra parte. Allora chiuse la porta dietro di sé. Una volta sul pianerottolo sentì qualcosa come un rimorso. Per un attimo pensò di ritornare indietro, ma si rese conto che una decisione simile sarebbe stata oltretutto molto ridicola. Ma che fare ora? Andare a casa? E dove se no? Oggi non poteva ormai fare più nulla. E domani? Cosa? E come? Si rendeva tacciato, incerto. Ogni cosa gli si vanificava tra le mani. Tutto diventava irreale. Persino la casa, sua moglie, la sua bambina, la sua professione, sì, persino lui stesso. Mentre continuava a camminare meccanicamente nella sera, coi suoi pensieri, senza meta. L'orologio della torre del municipio scoccò le 7:30. D'altronde non importava che ore fosse. Il tempo gli era completamente indifferente. Non provava interesse per nulla e per nessuno. Sentì una leggera compassione per se stesso. Molto fuggevolmente, non proprio come un proposito, gli venne l'idea di recarsi a una qualsiasi stazione. Partire. Ma non importava per dove. Sparire per tutti coloro che lo avevano conosciuto, ricomparire in qualche luogo all'estero e incominciare una nuova vita, sotto spoglie diverse. Sì, si ricordò di certi strani casi clinici che conosceva dai libri di psichiatria, delle cosiddette doppie esistenze. Un uomo spariva improvvisamente dalla vita normale, veniva dato per disperso, ritornava dopo mesi o dopo anni senza ricordare dove era stato tutto quel tempo, finché in seguito qualcuno con cui si era incontrato da qualche parte in un paese lontano lo riconosceva, ma lui non aveva più memoria di nulla. Casi simili si verificavano certo raramente, ma erano comunque provati. E in forma più lieve a più d'uno doveva capitare la stessa cosa. Per esempio, dopo aver fatto un sogno. Certo, ci si ricordava, ma sicuramente c'erano anche dei sogni che si dimenticavano del tutto, dei quali non restava più traccia, tranne un certo strano stato d'animo, uno stordimento misterioso. Oppure si ricordavano solo più tardi, molto più tardi, e non si sapeva più se si era fatta un'esperienza reale o soltanto sognato. Soltanto. E mentre continuava a camminare, prendendo involontariamente la via di casa, capitò nelle vicinanze di quella strada buia e alquanto malfamata in cui poco meno di 24 ore prima aveva seguito una donna perduta nella sua abitazione misera ma accogliente. Perduta. La donna malfamata. La strada. Come è vero che si cede sempre alle seduzioni delle parole, si giudicano e si denominano strade, destini, uomini, per pura forza d'abitudine. Quella ragazza non era in fondo la più graziosa, addirittura la più pura fra tutte le altre che le strane combinazioni della notte scorsa gli avevano fatto incontrare. Provò una certa commozione pensando a lei. E in quel momento si ricordò anche del proposito di ieri. Con decisione entrò nel primo negozio e comprò ogni specie di leccornie. E mentre camminava col pacchetto in mano lungo i muri delle case, si sentiva addirittura felice, convinto di accingersi a compiere un'azione perlomeno ragionevole, forse persino degna di lode. Comunque si alzò il bavero quando entrò nel portone. Salì in fretta le scale. Il campanello dell'appartamento mandò un suono stridulo e spiacevole. E quando apprese da una donna dall'aspetto equivoco che la signorina Mizzi non era in casa, tirò un sospiro di sollievo. Ma prima ancora che la potesse prendere in consegna il pacchetto per l'assente, entrò nell'anticamera un'altra donna, ancora giovane e non brutta, avvolta in una specie di accappatoio da bagno, e disse: «Chi cerca il signore?» «La signorina Mizzi. Quella non tornerà tanto presto a casa. La vecchia le fece cenno di tacere, ma Fridolin quasi desiderasse urgentemente una conferma a quanto aveva già in certo modo intuito. Osservò semplicemente: «È all'ospedale, vero?» «Beh, se il signore lo sa già, ma noi siamo sane, grazie a Dio!» esclamò allegramente e si accostò a Fridolin con le labbra semiaperte, piegando sfacciatamente indietro il suo corpo procace, sicché l'accappatoio si aprì. Fridolin disse con distacco: «Passavo di qui e son salito per portare qualcosa a Mizzi». E a un tratto gli sembrò di essere uno studente liceale. Poi chiese con tono diverso, concretamente: «Quale parte si vorrà?» La ragazza fece il nome di un professore nella cui clinica Fridolin era stato assistente alcuni anni prima, e poi aggiunse bonariamente: «Dia pure a me il pacchetto, glielo porterò domani. Si fidi di me, non toccherò nulla. Le darò anche i suoi saluti e le riferirò che lei non l'ha tradita». Nello stesso tempo, però, gli si fece più vicino e lo guardò ridendo. Ma poiché egli si tirò leggermente indietro, desistette subito e aggiunse in tono consolante: «Il dottore ha detto che fra 6 al più tardi 8 settimane sarà di nuovo a casa». Quando Fridolin uscì in strada, sentì un nodo alla gola. Ma sapeva che non si trattava tanto di commozione, quanto di un graduale venir meno dei suoi nervi. Prese intenzionalmente un'andatura più veloce e animata di quanto si confacesse al suo stato d'animo. Doveva forse considerare quell'avventura un ulteriore, un ultimo segno che tutto sarebbe fallito. Perché? L'essere sfuggito a un così grave pericolo poteva comunque anche ritenersi un buon segno. Ma era proprio quella la cosa più importante: evitare dei pericoli. Chissà quanti altri pericoli lo aspettavano ancora. Non pensava affatto di abbandonare le ricerche della meravigliosa donna della notte scorsa. Certo, adesso non c'era più tempo. E poi bisognava riflettere bene sul modo di proseguire le indagini. Sì, se avesse avuto qualcuno con cui consigliarsi, ma non conosceva nessuno che avrebbe messo volentieri a parte delle avventure della notte passata. Da anni non era più veramente in confidenza con nessuno, tranne che con sua moglie. E con lei poteva difficilmente consigliarsi in quel caso, in quello come in qualunque altro. Che la si mettesse come si voleva, la notte scorsa essa l'aveva fatto crocifiggere. Adesso capì perché i suoi passi, invece che in direzione di casa, lo conducevano istintivamente sempre più lontano, dalla parte opposta. In quel momento non voleva, non poteva andare da Albertine. La cosa più logica era cenare fuori da qualche parte e poi tornare in ospedale a riguardarsi i suoi due casi ed evitare ad ogni costo di essere a casa. A casa! Prima di poter essere sicuro di trovare la Albertine già addormentata. Entrò in un caffè, uno di quelli distinti e tranquilli nei pressi del municipio. Telefonò a casa che non lo aspettassero per la cena e riattaccò subito, per evitare che anche Albertine potesse andare al telefono. Poi si sedette vicino a una finestra e chiuse la tendina. In un angolo distante prendeva posto in quel momento un signore in soprabito scuro, anche per il resto vestito in modo molto discreto. Fridolin si ricordò di aver già visto in qualche posto nel corso della giornata quella fisionomia. Naturalmente poteva anche essere una semplice coincidenza. Prese un giornale della sera e lesse qua e là qualche rigo, così come aveva fatto ieri notte in un altro caffè. Notizie su avvenimenti politici, teatro, arte, letteratura, su incidenti piccoli e grandi di ogni genere. In una città d'America, il cui nome non aveva mai sentito, si era incendiato un teatro. Lo spazzacamino Peter Corand s'era gettato dalla finestra. A Fridolin sembrò in qualche modo strano che anche gli spazzacamini talvolta si suicidassero e si domandò involontariamente se si fosse prima lavato per bene o se fosse precipitato nel vuoto così com'era, tutto nero. In un signorile albergo del centro la mattina presto si era avvelenata una donna, una signora che alcuni giorni prima aveva preso alloggio sotto il nome di baronessa D, una signora di straordinaria bellezza. Fridolin si sentì subito coinvolto e pieno di presentimenti. La signora era rientrata alle 4 del mattino in compagnia di due uomini che si erano congedati da lei sul portone, le 4, proprio l'ora in cui anch'egli era tornato a casa. E verso mezzogiorno era stata trovata a letto priva di sensi, così continuava il giornale, con i sintomi di un grave avvelenamento. Una giovane signora di straordinaria bellezza. In fondo, c'erano molte giovani signore di eccezionale bellezza. Non c'era nessun motivo di ritenere che la baronessa D, o meglio, la signora che aveva preso alloggio nell'hotel con nome di baronessa D, e una certa altra fossero la stessa persona. Eppure gli batteva il cuore. E il foglio gli tremava tra le mani. In un signorile albergo cittadino. In quale? Perché era tutto così misterioso, così riservato? Abbassò il giornale e vide che contemporaneamente il signore, nel lontano angolo di fronte, sollevava a sua volta davanti al viso un giornale, un grande giornale illustrato, come una tenda. Anche Fridolin riprese subito in mano il suo e in quel momento si rese conto che era impossibile che la baronessa D potesse essere un'altra persona, diversa dalla donna della notte scorsa. In un albergo signorile del centro non ce n'erano poi tanti che potevano essere presi in considerazione per una baronessa D. E ora, qualunque cosa potesse succedere, bisognava seguire quella traccia. Chiamò il cameriere, pagò e uscì. Sulla porta si voltò di nuovo a guardare quel signore sospetto, ma l'altro era stranamente già scomparso. Grave avvelenamento. Ma viveva. Nel momento in cui l'avevano trovata, viveva ancora. E infine non vi era alcun motivo di ritenere che non fosse salva. Comunque, che vivesse o fosse già morta, l'avrebbe ritrovata e l'avrebbe vista. In ogni caso, morta o viva, l'avrebbe vista. Nessuno al mondo poteva impedirgli di vedere la donna che per causa sua, sì, per lui, aveva affrontato la morte. Lui era colpevole della sua morte, lui solo. Se era lei, sì, era lei. Tornata a casa al mattino alle 4 in compagnia di due signori, probabilmente gli stessi che qualche ora dopo avevano accompagnato Nachtigall alla stazione. Non avevano una coscienza troppo pulita, quei signori.